America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. ISIS releasing chilling new propaganda tapes showing young children. Ecco, avete sentito Fox News che parla di una notizia di ieri in tarda serata americana. È stato rilasciato un nuovo video dell'ISIS, del gruppo terroristico che sta facendo danni un po' dappertutto in Medio Oriente, dove si vedono dei ragazzini, dei bambini di 5 anni che vengono indottrinati. E questo video è stato trasmesso dagli esperti dell'ISIS, che sono poi tecnici avanzati dal punto di vista dell'utilizzo dell'informazione digitale, un po' dappertutto sulla rete. Il terrorismo, lo sappiamo, fa proselitismo attraverso la rete, questo è un pericolo gravissimo. La settimana scorsa c'è stata una riunione a Washington contro il terrorismo, il presidente Barack Obama ha parlato proprio del rischio implicito nell'utilizzo del mezzo digitale, nell'utilizzo di internet da parte di questi gruppi terroristici. Il problema è molto attuale, se ne è parlato qui a New York proprio ieri alle Nazioni Unite. Sentiamo. Secretary General urges all governments to strengthen their efforts. Ecco, questo è Stéphane Dujarric che avete sentito. Ieri ha partecipato a un dibattito attorno alla pubblicazione di un libro di cui vi parlerò fra poco, e Dujarric ha detto che le Nazioni Unite stanno rispondendo a questo problema. Hanno creato tutta una struttura attorno a Facebook, Twitter, attorno ai mezzi di comunicazione digitale per contrattaccare su questa che è la propaganda di gruppi terroristici oppure di gruppi che cercano di fare disinformazione. Bene, e Dujarric è stato molto interessante, ha detto che ci sono addirittura 4 milioni di followers già del sito delle Nazioni Unite su Twitter. Ha spiegato che il segretario generale delle Nazioni Unite, a differenza di molti leader mondiali, non ha un suo indirizzo su Twitter perché molto preso, non potrebbe farlo direttamente proprio per preservare la credibilità del messaggio digitale via internet. Si è deciso che è inutile farlo scrivere da una terza persona, o è in grado di farlo il segretario generale stesso oppure è inutile farla. Perché questi signori ieri dibattevano di questo alle Nazioni Unite? Perché è stato presentato un libro in materia. Digital Diplomacy, Conversation Innovation in Foreign Policy, cioè diplomazia digitale, conversazione sull'innovazione per la politica estera. Un po' il tema di cui parlava il presidente Barack Obama. Dobbiamo reagire. L'autore è Andrea Sandre, che è qui con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Andrea. Buongiorno Mario, come va? Bene, bene. Beh, dunque, allora, scusate, piccola parentesi, perché con Andrea, come si dice, we go way back, con orgoglio. Andrea oggi è un importante funzionario internazionale del governo italiano, distaccato a Washington, e si occupa proprio di comunicazione. Però Andrea, lo dico, ripeto, con orgoglio, ha cominciato con noi qua a New York, è vero o no Andrea? Sì, ho cominciato con te, allora si chiamava EMC, parte del Sole 24 Ore Ora. È stata un'esperienza formidabile da cui ho imparato molto. Beh, Andrea, diciamolo, già allora tu ti occupavi di cose digitali, io ti spronavo, ti ricordi? Digital. Il sito prima di tutto, e poi insomma gli strumenti digitali, i social media sono arrivati poco dopo, ma insomma il digitale è fondamentale, lo era allora, lo è ancora di più oggi. Ecco, allora vedi come succede in America, dove il mercato è aperto, dove le opportunità ci sono. Eccomi qua, sono io che intervisto te. Verissimo. Ecco Andrea, questo libro, questo libro, non per farti pubblicità, però mi sembra che sia il primo libro nel suo genere, il primo libro sulla diplomazia digitale, soprattutto scritto dal punto di vista di chi poi ci lavora. Mi sembra che sia stato preso da una ventina già di college universitari, l'hai scritto tra l'altro in inglese questo libro. Ecco, come nasce l'idea? Come ti viene l'idea di scrivere un libro così? Beh, l'idea è nata da un primo libro che scrissi nel 2013 con la prefazione dell'allora ministro degli esteri Giulio Terzi, e che intitolato Twitter for Diplomats. Era uno dei primi, diciamo, manuali su come utilizzare Twitter e Facebook da parte dei diplomatici italiani e stranieri. Era una sorta di studio su quello che succedeva all'epoca. Da lì ho sviluppato l'idea di parlare con gli esperti, con chi pratica giornalismo e social media, da chi crea il content a chi lo deve poi pubblicare, per capire esattamente come il diplomatico, il funzionario italiano o chi altro possa utilizzare Twitter e Facebook per meglio fare il proprio lavoro, per attuare le priorità di politica estera e per raggiungere il proprio audience. Allora, Andrea, il problema della informazione digitale. Adesso, a parte questa notizia di questo video di 9 minuti, però ho saputo che l'ISIS manda 90.000 messaggi al giorno per fare proselitismo su Twitter. Hanno sviluppato una campagna straordinaria. Come contrattacchiamo? cosa dice il tuo libro? Che consigli ci dà questo tuo libro? Poi ci dirai com'è nata l'idea, ma come contrattacchiamo sull'ISIS? Bisogna capire esattamente i social media, cioè il territorio su cui ISIS opera molto abilmente ormai da tempo. Bisogna capire esattamente come funzionano i social media, come mandare un messaggio, come renderlo virale e come una qualsiasi entità privata riesce a fare marketing. È quello che poi i governi devono riuscire a fare, che è la stessa cosa che alla fine fa. Ecco, però devo dirti, io ho sentito quello che ha detto il presidente americano e dice: noi dobbiamo educare, noi dobbiamo preoccuparci del fatto che ci sono delle persone in Europa che sono emarginate e quindi dobbiamo andare a arginare questo messaggio che arriva dall'ISIS, dai jihadisti, dai terroristi e che riesce a fare proseliti. Ecco, ma come? Dicendo che noi siamo più bravi, che noi siamo più belli? Mi è sembrato un po' ingenuo questo messaggio del presidente. E tu vedi forse un modo per poter superare dei sospetti, delle differenze? Come se tu avessi in mano una chiave e potessi dare un consiglio a Obama. Cosa gli dici? È come però avere la bacchetta magica. Alla fine essere su Twitter e Facebook non è la bacchetta magica. La diplomazia tradizionale deve continuare a esistere. Dobbiamo continuare invece ad investire di più sulla presenza social media, sulla presenza digitale, perché poi quella dove il nostro pubblico è presente ed è quella su cui si dà più visibilità. E che messaggi diamo per dare credibilità all'azione diplomatica? Dobbiamo prima innanzitutto privilegiare le voci positive. Esistono già su Twitter, su Facebook, sui social media tutte le voci positive ed è quello che poi uno dei risultati del summit della settimana scorsa. Queste voci positive sono milioni, bisogna solo incitarle ad essere più presenti sugli strumenti sociali. Ecco, abbiamo visto come i media, Twitter può essere incendiario dal punto di vista di una reazione politica. Pensiamo soltanto alla rivoluzione verde in Iran. Ecco, intanto è incontrollabile, cioè è difficile capire che cosa fa scatenare la scintilla. La viralità sugli strumenti sociali è quasi imprevedibile, non esiste una formula che ti porta alla viralità finale. Ecco, ma nel momento in cui qualcosa va viral, come si dice, come noi dell'Occidente o voi dei governi occidentali potete a quel punto cavalcarlo e utilizzarlo a vostro vantaggio piuttosto che a vantaggio dell'ISIS o del, tra virgolette, nemico terrorista? Beh, un po' di fortuna occorre, come la stessa fortuna poi hanno i tecnici che lavorano per l'ISIS alla fine. Devo dire però che la strategia, bisogna continuare ad investire su una strategia di comunicazione e di public diplomacy che abbia come centralità anche gli strumenti social media. Lo abbiamo visto l'anno scorso con l'hashtag United for Ukraine intorno alla crisi ucraina. Il messaggio è andato virale poco dopo il discorso di Obama a Bruxelles, con milioni e milioni di tweet, milioni e milioni di post Facebook con la chiave United for Ukraine. Ecco, noi in Italia a che punto siamo, diciamo, nella graduatoria di quelli che sono attivi con la digital diplomacy? Beh, l'Italia sta avanzando in maniera velocissima. Se vediamo solo a Washington, il mio capo, l'ambasciatore Bisognero, è bravissimo con i social media e l'importante è anche utilizzarli in maniera personale. Lo stesso ambasciatore utilizza Twitter, il suo account Twitter personalmente. Ecco, c'è una dimensione anche molto più larga, c'è lo spionaggio elettronico. Abbiamo visto che cosa hanno fatto con la Sony, abbiamo visto cosa hanno fatto i nordcoreani, le minacce. Ecco, fa tutto parte di questo straordinario fenomeno nuovo. Forse è importante e giusto cominciare a pensare a delle regole? Beh, già partendo dalla diplomazia, la diplomazia italiana si sta adoperando per avere delle guidelines, delle regole per l'utilizzo degli strumenti digitali e per la presenza digitale in termini di siti web, di blog, della presenza del proprio personale all'estero su strumenti quali Twitter e Facebook, e questo è un punto di partenza fondamentale. Ecco, secondo te fino a che punto la privacy è importante e fino a che punto invece è importante arrivare per primi e giocare d'anticipo su un possibile attacco terroristico? Il framework legale è fondamentale operare con delle guidelines, delle regole precise, ed è fondamentale capire esattamente fino a che punto si può arrivare. Questo è un argomento su cui si sta dibattendo e stanno dibattendo tutti i governi nel mondo. Ero presente per esempio a Stoccolma lo scorso gennaio per quella che viene chiamata la Stockholm Initiative on Digital Diplomacy, per capire esattamente, una volta che sei su social media, cosa accade dopo, come ricalibrare le priorità di politica estera e di diplomazia attraverso anche gli strumenti digitali. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.